Tutto giorno, le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Napolitano al Parlamento europeo, contestazione leghista durante il suo intervento. L'austerità ad ogni costo non regge più, dice il presidente. Le ragioni di disincanto dei cittadini sono chiare. Mercati in tensione dopo i dati negativi dagli Stati Uniti. Di ieri Tokyo affonda, perde oltre il 4%. In Europa le cose vanno meglio. Milano al momento perde mezzo punto percentuale. Resta stabile l'inflazione allo 0,7% e cambia il paniere dell'Istat. Entrano le sigarette elettroniche. Letta annuncia un accordo con il Kuwait. Il fondo sovrano investirà 500 milioni di euro nel nostro fondo strategico. Questa è politica interna, economica, industriale, dice il Premier. Ritrovata l'auto usata dagli uomini che hanno fatto evadere Domenico Cutrì ieri a Gallarate. Fuggito oggi un boss dell''Ndrangheta. Era ai domiciliari, tra poco intervista con il sottosegretario alla giustizia. Stato di calamità naturale in Veneto per il maltempo, lo ha annunciato poco fa il presidente Zaia. Evacuata Bovolenta. Una buona giornata da Simone Spezia e benvenuti ad Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti che, se volete, potete commentare al 349-238-6666 oppure sulla nostra pagina Facebook www.facebook.com/effettogiorno. Iniziamo dunque dall'intervento del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano al Parlamento europeo, un intervento nel quale naturalmente di Europa si è parlato in termini che hanno fatto infuriare i leghisti. Dunque sentiamo le parole di Napolitano e il momento della contestazione appunto arrivata dai parlamentari italiani della Lega. I cittadini elettori non sono dinanzi a una scelta fuorviante tra stanca retorica difesa da una parte di un'Europa che ha mostrato gravi carenze e storture nel cammino della sua integrazione e dall'altra parte agitazione distruttiva contro l'euro e contro l'Unione. Sì, puramente distruttiva, anche se in nome di un'immaginaria altra Europa da far nascere sulle rovine di quella che abbiamo conosciuto. No, i termini della scelta non sono questi. Dovremmo ospitare tra poco, se nella confusione che c'è in queste ore al Parlamento europeo riusciremo a raggiungerlo, il segretario leghista ed europarlamentare Matteo Salvini. Veniamo al Presidente del Consiglio, Enrico Letta, che sta terminando il suo viaggio negli Emirati e poi oggi in Kuwait, da dove ha annunciato un importante accordo. Vincenzo Miglietta, buongiorno. Sì, buongiorno. Ultima tappa nel Golfo per il Presidente del Consiglio Letta, una 3 giorni di intensi incontri finalizzati a far conoscere le potenzialità del nostro Paese, un Paese uscito ormai dalla crisi, come ha sottolineato lo stesso Premier, e che la situazione sia questa, grazie alla stabilità e alle riforme intraprese, spiegano da Palazzo Chigi, è l'interesse riscontrato dai fondi sovrani di Dubai, Emirati Arabi Uniti, Qatar ed oggi Kuwait nelle imprese italiane in tutto ciò che rientra sotto al Made in Italy. Ed è un bilancio più che positivo quello fatto stamane dal Presidente del Consiglio, forte dei 500 milioni di euro che solo il Kuwait investirà in aziende italiane attraverso la cassa depositi e prestiti. Gli accordi sottoscritti nel Golfo, ha rivendicato Letta, sono la migliore risposta al disfattismo imperante del nostro Paese. Sentiamo questo passaggio. Fatemi dire che questa scelta e questi soldi che riportiamo a casa sono la migliore risposta al disfattismo imperante nel nostro Paese. È il segno che fuori dall'Italia credono nelle possibilità dell'Italia ed è il segno che lavorando gli obiettivi si raggiungono e i risultati si raggiungono. Torno a Roma, ha detto ancora Letta, dopo questi giorni nel Golfo ancora più determinato che la strada intrapresa per far ripartire il nostro Paese è quella giusta, ne parlerò nelle discussioni che avremo con alleati e dentro il PD. Ed è tutto, linea allo studio. Grazie a Vincenzo Miglietta. Abbiamo sentito delle contestazioni leghiste nel Parlamento europeo, ma a far discutere in queste ore continua ad essere il Movimento 5 Stelle, dopo tutto quello che è successo in Parlamento nei giorni scorsi e dopo il nuovo post di Grillo di oggi. Elisabetta Fiorito, eccoci, buongiorno. Sì, Simone, Beppe Grillo non si ferma, continua ad attaccare Laura Boldrini, deve dimettersi dopo l'applicazione della ghigliottina per il decreto IMU Banca Italia a Montecitorio, e il leader del Movimento 5 Stelle dice che in Italia è in corso un colpo di Stato, non si può più far finta di nulla, il Presidente della Camera ha violato le leggi della democrazia, nessuno prima di lei si era spinto fino a questo punto, il Movimento 5 Stelle farà in modo di invalidare il decreto IMU Banca Italia e di ottenere le dimissioni della Boldrini. Dal canto suo il Presidente della Camera risponde: per me la vicenda è chiusa, è già abbastanza penose. Ma ci sono altri attacchi contro il capo ufficio stampa Claudio Messora. Dopo il post poco felice sulla Boldrini ne spunta un altro erotico che aveva scritto sul suo blog, subito rimosso. Una cosetta a tre era il titolo e avrebbe coinvolto in questa cosetta a tre Maria Stella Gelmini, Mara Carfagna e Stefania Prestigiacomo di Forza Italia. Il post risale all'11 luglio del 2010, una fantasia erotica, aveva scritto Messora, dettata dall'inconscio freudiano. Per il momento qui da Roma è tutto, a te Simone. Grazie Elisabetta Fiorito. Per conto suo la Presidente della Camera Laura Boldrini dice: per me la vicenda è chiusa. Lo fa a margine di una presentazione di un importante rapporto sul lavoro. Ci colleghiamo con Alessandra Schepisi che ci racconta che cosa è successo. Buongiorno. Sì, buongiorno. 7 milioni soggetti in situazioni di disagio occupazionale, con un divario ancora significativo tra nord e sud del paese, è il dato che emerge dal documento della Commissione Lavoro presentato oggi alla Camera, appunto dalla Presidente Boldrini e dal Ministro del Lavoro Giovannini. In Italia il rischio di rimanere disoccupati è più elevato per i giovani rispetto alle altre classi di età e gli scoraggiati, cioè coloro che hanno rinunciato a cercare un lavoro, superano i disoccupati. Insomma, un quadro preoccupante, anche se il Ministro del Lavoro Giovannini rivendica la strategia complessiva del governo di questi 9 mesi, si è fatto molto, ha detto anche fuori dalle aule parlamentari. Giovannini ha poi ricordato come ogni anno vengano spesi annualmente 5 miliardi per le politiche attive per l'occupazione e il governo abbia aumentato questa cifra del 20%. Si è detto poi anche fiducioso, il primo segnale che vediamo da un anno e mezzo nell'ultimo trimestre è che qualcosa sta crescendo anche sul mercato del lavoro, per la prima volta i contratti attivati superano le rescissioni. Giovannini è poi intervenuto sulla vicenda dell'INPS e sulle dimissioni del presidente Mastrapasqua. Sentiamo. Abbiamo la discussione sulla riforma della governance, io ho convocato le parti sociali per incontrarci questa settimana, ci sono varie proposte depositate in Parlamento sulla governance e quindi abbiamo bisogno da un lato di assicurare il funzionamento dell'INPS, che è un ente assolutamente fondamentale, dall'altro legare queste discussioni della riforma della governance, visto che sono state anche avanzate proposte molto eterogenee e quindi contiamo di fare questo in tempi molto ristretti. Ringraziamo anche Alessandra Schepisi per questi aggiornamenti. Gli altri aggiornamenti che vi vogliamo dare sono dai mercati in questo momento. È stata una mattinata molto difficile, soprattutto a Tokyo. L'indice manifatturiero americano ieri era sotto le attese, alimentato i timori degli investitori sull'economia globale. Male ha fatto anche Wall Street ieri, naturalmente, con il Dow Jones che ha perso il 2,08%, il Nasdaq il 2,61%. Negativa anche l'Europa, meno 0,46% Milano sul FTSE MIB, mezzo punto percentuale di calo per il FTSE All Share. Ci torneremo più avanti, ospiteremo un economista e poi naturalmente ci saranno come sempre gli aggiornamenti sui mercati. Restiamo sull'economia però e parliamo dei dati sull'inflazione che sono arrivati questa mattina dall'Istat, che soprattutto ha comunicato il cambiamento di paniere. Nel gennaio di quest'anno l'inflazione su base annua resta ancora ferma allo 0,7%, lo stesso valore già registrato a dicembre e novembre, il più basso da oltre 4 anni, lo rileva l'Istat nelle sue stime. E cambia il paniere tenendo conto delle novità nelle abitudini di spesa delle famiglie. Nel 2014 entrano sigarette elettroniche relative ricariche, il caffè in cialde o in capsule con l'apposita macchina e il giornale quotidiano online. Ma anche i sacchetti ecologici per i rifiuti organici, il formaggio spalmabile e il formaggio grattugiato in confezione. Esce invece dal paniere la voce relativa ai servizi di riparazione di apparecchi audiovisivi o informatici, dalle TV ai PC, passando per le radio. Fuori anche il tailleur, sostituito dall'abito unico da donna, così come lo yogurt biologico rimpiazzato da quello probiotico. I comportamenti di spesa delle famiglie rivelano dunque che sono diventate più tecnologiche, più attente alla raccolta differenziata e sempre più orientate a consumi veloci, bevande o cibi già pronti all'uso. Nel 2014, poi, il paniere è composto da 1.447 prodotti, erano 1.429 nel 2013. A gennaio di quest'anno, infine, l'aumento del prezzo del cosiddetto carrello della spesa, ossia l'insieme di prodotti più acquistati, dal cibo ai carburanti, è risultato pari all'1,1% su base annua, in leggera frenata rispetto a dicembre, che era più 1,2, ma comunque più alto a confronto col tasso di inflazione generale. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E noi veniamo alla cronaca. La Citroën era usata dai malviventi che ieri pomeriggio a Gallarate hanno fatto evadere Domenico Cutri è stata ritrovata dai carabinieri in un parcheggio vicino all'ospedale di Magenta. Come era facilmente intuibile, l'auto risulta rubata. È in corso una caccia all'uomo, naturalmente, per trovare Cutri. Io saluto Giuseppe Berretta, che è sottosegretario alla giustizia. Bentornato ad Effetto Giorno. Salve. Salve, grazie tante per l'invito. Allora, la vorrei sollecitare su questo tema. È un tema che è stato posto ieri dal procuratore Gratteri, da un magistrato dunque, e poi rilanciata questa mattina dal segretario del Partito Democratico Matteo Renzi. Che cosa è successo? È successo che Cutri doveva comparire in udienza ed è stato portato là a Gallarate, dove poi è avvenuto questo vero e proprio assalto e questa liberazione, per appunto un'udienza. Gratteri dice: ma perché queste cose non le facciamo in videoconferenza? Non mettiamo a rischio gli agenti di polizia penitenziaria e, come dire, ci sono meno pericoli di fuga di questo tipo. Lei che dice? Beh, guardi, è una cosa che ovviamente, come spesso capita, ne parliamo il giorno dopo, però è una delle questioni che già abbiamo affrontato, che stiamo valutando con grande attenzione, perché abbiamo piena consapevolezza del fatto che c'è l'esigenza di contemperare il diritto del detenuto a partecipare al processo e a poter difendersi nelle forme dovute, con l'esigenza di tutela di tutti i cittadini e anche di chi opera, quindi nell'amministrazione penitenziaria si occupa delle traduzioni, cosa come abbiamo visto è molto pericolosa. L'episodio di ieri c'è il fatto sicuramente grave, connesso anche alla sicurezza di coloro i quali erano preposti alla vigilanza e alla traduzione. Berretta, secondo quindi, lei? Proseguo. Nel senso che noi abbiamo una norma che prevede che soltanto per alcuni reati particolarmente gravi, che riguardano appunto la mafia, il terrorismo, sia prevista questa possibilità. Noi siamo convinti che dell'esigenza di estenderlo e di prevederlo non soltanto nel caso in cui uno venga imputato per questi reati, ma anche nel caso in cui sia già detenuto per reati piuttosto gravi e debba rispondere per altri reati, perché questa è la fattispecie che nel nostro caso abbiamo dinanzi. C'è una persona che è già detenuto e condannato per un reato molto grave come l'omicidio, che deve rispondere di altri reati considerati sicuramente meno gravi, ma però vanno a comporre complessivamente una personalità del detenuto davvero preoccupante. Berretta, era inadeguata secondo lei il sistema di sicurezza per Cutri? Guardi, le notizie che abbiamo sono che sicuramente il direttore del carcere di Cuneo aveva consapevolezza della esigenza di apprestare tutti gli strumenti per prevenire dei rischi. Quanto pare si è fatto di tutto, certo il fatto oggettivo che l'evasione sia avvenuta evidentemente ha preso di sorpresa, nonostante, ripeto, la consapevolezza, la segnalazione avvenuta ad opera del direttore del carcere e l'apprestamento delle misure correlate da parte dell'amministrazione. E quindi non erano adeguate queste misure, sottosegretario? Probabilmente nonostante la pericolosità del soggetto non ci si attendeva un'azione così violenta e così forte da parte dei suoi familiari e da parte dei suoi complici. Le voglio fare un'ultima domanda. Oggi arriva c'è lo svuota carceri alla Camera con la fiducia posta dal governo. Arrivano due critiche opposte. Da una parte quella dei 5 Stelle e quella della Lega, che dicono insomma metteranno fuori, libereremo criminali e mafiosi, e dall'altra parte Sel che dice il provvedimento è stato svuotato, ci allontana dall'Europa, in realtà è un provvedimento troppo morbido. Una risposta a queste due fronti. Se ci sono troppe critiche vuol dire che stiamo facendo bene, no? Io, al di là della battuta, io credo che il tema mafiosi e pericolosi criminali l'abbiamo archiviato definitivamente, perché ieri è stato approvato un emendamento che non applica minimamente questa ipotetica liberazione anticipata a costoro, e quindi non è uscito nessuno in questi 40 giorni, non sarebbe uscito nessuno pericoloso davvero, nemmeno in applicazione del testo originario. Per cautela e rasserenando tutti i cittadini, vogliamo dire che nessun pericoloso criminale, nessun mafioso, nessun soggetto che diciamo, godrà di alcun beneficio previsto dal decreto legge. Dopodiché noi stiamo facendo una politica molto oculata che tiene conto delle esigenze della sicurezza, ma anche delle esigenze di tutela della dignità dei detenuti, che sono troppi, in condizioni davvero inumane, e questa condizione inumana dei detenuti non ci fa star tranquilli, anzi abbiamo intrapreso un percorso che è un percorso molto fermo, che già sta dando importanti risultati, perché siamo passati da 68.000 detenuti a 61.000, abbiamo incrementato notevolmente il numero dei posti detenuto nelle nostre carceri, quindi stiamo arrivando a 48.000, stiamo riducendo questa forbice, che è una forbice abnorme, tra numero posti detenuti e numero dei detenuti effettivi nelle nostre carceri. Dopodiché siamo consapevoli del fatto che il primo obiettivo è quello di assicurare la sicurezza, la serenità, la certezza della pena. Siamo in una condizione di emergenza, dobbiamo tentare di mettere in atto piccoli passi che ci consentano però di raggiungere obiettivi concreti a favore dei detenuti, rassicurando però tutti i cittadini in ordine alla loro sicurezza. Grazie sottosegretario, buona giornata. Grazie molte. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. Napolitano al Parlamento europeo, contestazione leghista durante il suo intervento. Salvini dice senza vergogna e malafede. Il presidente, l'austerità ad ogni cosa non regge più. Le ragioni di disincanto dei cittadini sono chiare. Mercati in tensione dopo i dati negativi di ieri dagli Stati Uniti. Tokyo affonda e perde oltre il 4%, negativa anche Milano. Inflazione allo 0,7%, resta stabile, cambia il paniere dell'Istat, entrano le sigarette elettroniche. L'ETA annuncia un accordo col Kuwait, il fondo sovrano investirà 500 milioni di euro nel nostro fondo strategico. Questa è politica interna, economica e industriale, dice il Premier. E per tornare alla vicenda dell'evasione di Domenico Cutrì, a chi ci chiede via SMS e come è possibile che sapessero quelli che l'hanno fatto evadere, in quel momento lui era in quel camioncino semplicemente perché stava andando ad un'udienza in tribunale. L'udienza in tribunale è fissata ad una determinata ora e quindi il camioncino che lo portava era quello. Adesso noi vogliamo occuparci di mercati e delle tensioni che stanno attraversando in queste ore, che li stanno attraversando in queste ore, anche a causa dei dati negativi arrivati dagli Stati Uniti, ma non solo. Io saluto Gianluca Spina, che è presidente del MIP, la Business School del Politecnico di Milano. Buongiorno professore. Buongiorno a lei. Prima di parlare con lei però proseguiamo il nostro viaggio. Ogni giorno questa settimana ci occupiamo dei paesi emergenti che stanno mettendo paura ai mercati. Ieri ci siamo occupati di Russia, oggi di Argentina. The party is over. La festa è finita. Il prestigioso settimanale inglese The Economist titola così l'articolo sull'Argentina di questa settimana. La lunga galoppata dell'economia argentina, durata più di 10 anni, dal 2002, anno del default, fino ai giorni nostri, si è esaurita. Per la verità, la spinta propulsiva favorita dall'esportazione di materie prime agricole si è esaurita un paio d'anni fa, ma in queste settimane i nodi sono venuti al pettine e ora i mercati temono l'aggravarsi e l'espandersi della crisi. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner convalescente dopo un'operazione, è stata attaccata dall'opposizione, in particolare dalla potente lobby agroindustriale che non tollera le restrizioni sull'acquisto di dollari introdotte nel 2011, restrizioni ora allentate. Attacchi che si sono tradotti in speculazione sul peso, la moneta argentina che nelle scorse settimane ha perso più del 20% del proprio valore, costringendo la banca centrale a intervenire bruciando 2,3 miliardi di dollari di riserve. Da qui un'instabilità diffusa che mette a nudo le fragilità di un paese sempre condizionato dal ciclo delle materie prime agricole. Prezzi alti, economia in crescita, prezzi bassi, crisi. Una crisi che potrebbe inasprirsi e travolgere nel gorgo dell'insufficienza alimentare un paese di 40 milioni di abitanti che produce cibo per 400 milioni di persone. La solita follia dell'Argentina condannata a rivivere il proprio passato, quello di un paese incapace di pianificare uno sviluppo stabile ed equilibrato. Roberto Darin, Radio 24, Sole 24 Ore. Abbiamo sentito dell'Argentina, domani parleremo della Turchia, andremo anche in Brasile per il quale preoccupa la crescita, e però vogliamo restare alla giornata di oggi, a questo crollo di Tokyo. Allora, professor Spina, come l'ha letto? Le situazioni che abbiamo sentito sono molto diverse tra loro. Se stiamo alla notizia del giorno, il crollo del Nikkei per una certa misura era anche un po' nell'aria, un po' anticipato anche dall'andamento del cambio dello yen sul dollaro. Certamente uno scivolone. Io non credo che, non vedo nel medio termine degli effetti, diciamo, domino sulle economie asiatiche in generale, poi sulle borse di tutto il mondo. Non vede rischi di effetto domino. Certo, professore, che c'è una situazione generale che preoccupa. Il dato di ieri sul manifatturiero americano fa pensare che forse l'America non tiri come si poteva pensare. Abbiamo segnali negativi, come si diceva, che arrivano da una serie di ormai di paesi che possiamo definire ex emergenti, perché sono belli che emersi da tempo, come il Brasile, la Turchia, la Russia e la stessa Cina, che dà qualche segnale di debolezza. Sì, credo che da un lato segnali che vengono dagli Stati Uniti non aiutino in questo momento. Io penso che il segnale più forte non sia tanto il dato, forse non così entusiasmante, sul settore industriale manifatturiero, quanto il cosiddetto tapering, quindi il fatto che prima o poi, in modo soft, in modo smorzato, ma la politica espansiva del quantitative easing che ha dominato tutto i mercati finanziari negli ultimi anni, ovviamente non potrà più continuare, non continuerà con i ritmi e con i tassi con cui è stato in passato, e questo sottrarrà evidentemente la liquidità ai mercati, e questo credo che sia il fattore più rilevante, più che non i dati sul manifatturiero. Dal punto di vista del Giappone, dell'ultima domanda che le voglio fare, regge il boom al quale abbiamo assistito almeno l'anno scorso, al di là del dato di oggi naturalmente? Ma sicuramente la cosiddetta Abenomics, no? Quindi diciamo la politica inaugurata dal premier giapponese ha avuto nel breve termine degli effetti positivi per tirare un po' fuori il Giappone da una stagnazione che durava da un tempo veramente lunghissimo. Io onestamente non credo che anche questa strategia abbia un grande futuro, e quindi di conseguenza forse questo è un po' un primo segnale. In generale l'economia giapponese in quanto tale non è a rischio di un collasso, come invece forse alcune economie più fragili che in questi giorni danno qualche segnale. Abbiamo parlato prima di Argentina, no, non possiamo neanche lontanamente paragonare la cosa, però certamente non penso che la cosiddetta Abenomics abbia un futuro radioso nei prossimi 2 o 3 anni. Grazie a Gianluca Spina, presidente MIP, la Business School del Politecnico di Milano, per essere stato con noi. Buona giornata. Grazie a voi, buona giornata. E saluto Enrico Brivio, voce che solitamente siamo soliti sentirla da Bruxelles, un collega giornalista. Enrico, buongiorno. Buongiorno. E che invece oggi sono tutt'altro posto. Ti trovi adesso nel cuore dei luoghi nei quali il maltempo sta creando più problemi in questo momento, in Veneto, a Bovolenta, che è stata evacuata. Sì, Bovolente è stato evacuato il centro storico, circa 250 persone, perché qui veramente il battiglione ha raggiunto ormai un livello di guardia, diciamo che è forse mezzo metro dall'argine, dal limite dell'argine. Quindi ho parlato col sindaco Vittorio Meneghello, il quale mi ha detto di aver deciso di sgomberare il centro storico del paese. 4 o 5 famiglie in realtà hanno avuto già l'acqua in casa, sono quelle in una parte del paese che è proprio tra la confluenza del Bacchiglione con un altro canale. C'è molta apprensione, si guarda il livello di questo fiume ed è un incubo che ritorna, alcuni anzi perché nel 2010, come sai, c'è stata qui un'alluvione che ruppe roncaiette e interessò l'area artigianale anche di Bovolente. L'abbiamo raccontata molto intensamente. Il sindaco ha la preoccupazione che si verifichi una situazione simile a quella del 2010, se non peggiore, da quel che ho capito. Sì, lui dice addirittura che la situazione gli sembra peggiore, addirittura richiamava quella del 66, del 1966, quando l'alluvione fu ben peggiore. Si spera di no, ora alle 3 si temeva il livello di guardia e quello che preoccupava il signore è che questa piena del fiume continui ancora per alcune ore. Si spera che gli argini reggano, perché appunto nel Vicentino il Bacchiglione è già un po' ridisceso e qui siamo più verso il mare e in questo momento è la situazione più critica, con gli argini sotto pressione in questo momento. Grazie ad Enrico Brivio per questi aggiornamenti. Enrico, grazie, buona giornata. Grazie a voi. Nel frattempo, lo ricordiamo ancora, è stato dichiarato lo stato di calamità naturale dal presidente del Veneto Zaia e ha chiesto naturalmente anche al governo di intervenire. Abbiamo parlato poco fa di mercati, approfondiremo la situazione tra un attimo. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. Il maltempo continua a colpire il Veneto, 200 persone, come avete sentito, evacuate a Bovolenta. Arriva adesso notizia che altre 200 persone sono state evacuate a Battaglia Terme, siamo sempre in provincia di Padova, decisione presa dopo l'allagamento dei quartieri Ortazzo e Chiodare, problemi e allagamenti anche a Montegrotto Terme. Napolitano al Parlamento europeo, contestazione leghista durante il suo intervento, l'austerità ad ogni costo non regge più, dice il Presidente. Inflazione ferma allo 0,7%, cambia intanto il paniere dell'Istat, entrano le sigarette elettroniche. Letta annuncia un accordo con il Kuwait, il Fondo Sovrano investirà 500 milioni di euro nel nostro fondo strategico. È il momento della borsa. Borse in diretta. Isabella Tasso, Radio Core Il Sole 24 Ore, bentornata. Buongiorno. Meno 0,3% per il FTSE MIB, meno 0,36% per il FTSE OCER, negativa il resto d'Europa, anzi no, in realtà Parigi è marginalmente positivo, un più 0,02%, Francoforte giù dell'1,07%, Londra di mezzo punto percentuale. Beh, Isabella, visto com'è andata Tokyo questa mattina, forse ci si poteva addirittura aspettare di peggio, no? Ci si poteva aspettare di peggio, ma le borse hanno tentato timidamente un recupero in apertura, poi hanno per lo più perso terreno. Piazza Affari ha tentato il superamento di nuovo dei 19.000 punti per i FTSE MIB, per poi tornare indietro, questo in attesa adesso di avere indicazioni dall'apertura di Wall Street, dopo appunto il meno 4% segnato dalla borsa di Tokyo stamattina, che porta a meno 14% la performance del listino asiatico da inizio anno. Da inizio dell'anno. Allora, partiamo dai titoli negativi, Unipolsai meno 2,2%, Exor meno 2,09%, Mediobanca un punto e mezzo, così come Saipem e Popolare Emilia Romagna. Ci sono casi particolari? Ma guarda, il comparto bancario, come dicevamo in mattinata, aveva tentato un recupero, adesso mostra un andamento contrastato, sono positivi, dicevamo, Banco Popolare più 0,5%, Intesa San Paolo più 0,3%, questo in scia alle indiscrezioni sulla creazione di una bad bank, mentre restano in negativo UBI meno 0,78, Popolare Emilia Romagna meno 1,45, Carige va bene, fa più 1,9 con volumi sostenuti, questo dopo che il Sole 24 Ore ha parlato di un possibile interesse di Bonomi appena uscito dal dalla Popolare di Milano e di Malacalza sull'aumento di capitale. Bene Enel, brevemente, ma qua ci sono i conti, più 1,28%. Sì, Enel fa più 1%, oggi pomeriggio sono attesi i conti del 2013, dell'ultimo trimestre, gli analisti non prevedono grosse sorprese, così come è stato per i risultati di Enel Green Power ieri, anche loro in linea con le previsioni, anche Enel Green Power si tiene sulla parità in una giornata, dicevamo, di ribassi. Grazie anche per oggi Isabella, buona giornata. Buona giornata. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Matteo Salvini, segretario della Lega ed europarlamentare, benvenuto. Grazie per l'invito, eccomi qua. Com'è che ce l'ha così tanto un Napolitano? No, il problema non è Napolitano, il problema è che chi continua a difendere questa Europa, questi vincoli europei e questa moneta unica che non si chiama euro ma marco tedesco è in malafede. E quindi poteva essere Napolitano, Pippo, Pluto o Paperino, ma chi continua a perseverare su una linea che sta portando disoccupazione, sta facendo chiudere migliaia e migliaia di aziende, ripeto, o è ingenuo o è in malafede. Questo euro è la morte della nostra economia. E quindi Napolitano è in malafede, perché insomma definire ingenuo un politico di così lungo corso mi sembra difficile, secondo lei naturalmente, dico. Beh, guardi, chi non è in grado di leggere i numeri, di guardare il tasso di disoccupazione, il numero di imprese che chiudono, di negozi che chiudono, di artigiani e di partite IVA che chiudono e che scappano, è una moneta che non può andare bene per 18 paesi così diversi. Quindi per rilanciare l'economia c'è bisogno di sovranità, c'è bisogno di libertà, c'è bisogno di lavoro. Napolitano non ha parlato di questo e quindi educatamente ci siamo permessi di chiedere un'Europa fondata sul lavoro e non sulle banche. Beh, insomma, è stata una contestazione anche abbastanza dura, non proprio educatissima, no? Salvini, se uno sta al Parlamento italiano, dove si mettono le mani addosso, dove si danno delle puttane, dove ci sono schiaffoni che volano, noi ci siamo alzati, abbiamo espresso civilmente l'idea che un'altra Europa è possibile, fondata, ripeto, sul lavoro, sulla sovranità monetaria e quindi non sull'euro. Questa è una convinzione mia e di 7 premi Nobel per l'economia. So che Radio 24 evidentemente ha altri presupposti, altre indicazioni. Sì, però decisamente. Penso che come vede, diamo comunque spazio ad opinioni diverse. Ma ve lo riconosco, ci mancherebbe altro e vi ringrazio per questo. Salvini, buona giornata. Grazie a voi, buon lavoro. Salve. Vediamo un attimo se riusciamo, vogliamo parlare di Facebook adesso. Ci siamo? Abbiamo Giovanni Bocciartieri, docente di sociologia dei media digitali all'Università di Urbino. Carlo Bo. Eccoci qua. Ci siamo, Artieri? Sì, buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Facebook compie 10 anni. Voi avete effettuato nei mesi scorsi una ricerca proprio su questo, partendo da questi 10 anni di Facebook. E che cosa emerge da questa ricerca? Ci dà qualche dato interessante? Sì, in Italia sono 5 anni che viviamo Facebook a livello di massa. La cosa che è emersa in questo tempo è di base una maggiore consapevolezza dell'utilizzo che gli italiani stanno facendo di Facebook, più preoccupati di salvaguardare la loro privacy e quindi di imparare a curare le informazioni che mettono online, anche perché abbiamo capito come italiani che esiste una continuità totale fra ambiente online e realtà offline. Quello che produciamo lì all'interno non è privo di conseguenze all'esterno. D'altra parte e questo lo vediamo spesso Artieri, dico, soprattutto in questi giorni nei quali l'interazione soprattutto in politica tra online e offline si sta facendo decisamente Facebook più forte. Facebook è diventato un po' una specie di nervo scoperto del paese anche, e credo che la preoccupazione, come dire, economica, la realtà politica attuale portino a far emergere anche, diciamo, per opera dei media generalisti la pancia del paese nel bene e nel male. E quindi, come dire, stiamo sviluppando una narrazione che in questi giorni ci fa scoprire ancora di più il discorso d'odio per quanto riguarda Facebook. decisamente. L'unica realtà è che comunque gli unici anticorpi che abbiamo siamo noi, cioè la possibilità di creare una cittadinanza culturale e digitale un po' più evoluta. Un po' più evoluta rispetto a quella che stiamo vedendo in questi giorni. Le voglio chiedere questo, ma dal punto di vista dell'uso, perché insomma viene tanto celebrato questo decennale di Facebook in queste ore, in realtà molti dicono Facebook è in decadenza, innanzitutto perché non attrae più i giovani che vanno verso altri social network. I dati cosa ci dicono? I dati ci raccontano una realtà che per quanto riguarda i giovani è in caduta libera, l'abbiamo visto anche nelle preoccupazioni stesse di Facebook quando si è quotato in borsa. Si muovono verso altri ambienti e altri modi di stare connessi, perché abbiamo una serie di applicazioni, soprattutto in mobilità, che riescono a sfruttare meglio i loro bisogni. Pensiamo semplicemente in Italia a WhatsApp o il tanto cercato da acquistare da Facebook Snapchat, per quanto riguarda in particolare gli Stati Uniti. I giovani hanno dei bisogni diversi, di una comunicazione più volatile, la possibilità di creare delle cerchie a cui comunicare in maniera più facile, senza uno sguardo magari degli adulti. Ma mi sembra che Facebook stia rispondendo o cercherà di rispondere bene da questo punto di vista, in maniera forte. L'abbiamo visto ieri con l'uscita di Paper, per esempio. Cioè, mi sembra che l'idea... Che strumento è Paper? Paper è uno strumento che arriverà anche in Italia, è già disponibile per quanto riguarda i nostri smartphone sulle varie piattaforme. È uno strumento che permette di organizzare le news in chiave sociale, in un misto fra news professionali e news che vengono dai nostri contatti. Ma la cosa interessante non è tanto quella, secondo me, che rappresenta una prima applicazione, che Facebook ha capito che i social network come concetto sono qui per restare, ma forse non resteranno in questa forma, cioè forse non avremo un ambiente totalizzante in cui entriamo dentro, che è la nostra pagina Facebook, e da lì dobbiamo fare tutto, perché abbiamo bisogno di muoverci in libertà, ad esempio attraverso i nostri cellulari, e forse di gestire anche le diverse reti in maniera diversa. Quindi perché non pensare a un'app fatta per i giovani che permetta, come dire, a loro di comunicare in maniera più diretta, scavalcando la visibilità pubblica? Ecco, forse, come dire, lo spacchettamento dei servizi di Facebook e dei modi di comunicare in modi nuovi potrebbe essere una strada che Facebook sta tentando. Grazie a Giovanni Bocciartieri, docente di sociologia dei media digitali all'Università di Urbino Carlo Bo, per essere stato con noi. Buona giornata. Grazie e buona giornata a voi. E noi torniamo alla cronaca in chiusura di questa parte per questa discarica non autorizzata a Palermo, a poche centinaia di metri dalle abitazioni. Con questa accusa i carabinieri hanno eseguito 4 ordinanze di custodia cautelare. Agli indagati sono contestati anche la gestione abusiva, il deposito e l'abbandono incontrollato di rifiuti pericolosi e non, tra cui amianto e mercurio. Il capitano Daniele Giulio Clemente Credidio, comandante della compagnia di Palermo, Piazza Dante, al microfono di Katia Caramelli. La discarica si trovava in un quartiere di Palermo che si chiama Falsomiere e rimane circa 300 metri dalle prime case ed è un'area rurale di questo quartiere, un'area rurale dove nell'intorno ci sono una serie di coltivazioni ed agrumeti. La cosa particolare è che le indagini geologiche eseguite nel terreno hanno permesso di scoprire che lo stesso è altamente permeabile e di sotto passa una falda acquifera che rifornisce tutta una serie di pozzi. Che tipo di rifiuti venivano smaltiti in questa discarica? Sempre grazie ai carotaggi eseguiti abbiamo scoperto che i rifiuti contenevano amianto, mercurio, eternit, e abbiamo anche documentato lo smaltimento di un cavallo. La provenienza per lo più era del mondo edilizio. Noi abbiamo documentato attività dalla fine del 2012. Sentiamo cosa succede sulle strade. Strade in diretta. Attese al traforo del Monte Bianco sia sul versante italiano che su quello francese per un veicolo fermo in avaria all'interno del tunnel. Sulla 14 Adriatica invece 2 chilometri di coda per un incidente tra Monte Marciano e Senigallia verso Bologna. Siamo adesso sull'Autosole per lavori 1 chilometro di coda tra Roma Nord e Ponzano Romano verso Firenze e code per cantieri anche sulla 4 Brescia-Padova nella zona di Peschiera in entrambe le direzioni. È tutto, il prossimo appuntamento tra mezz'ora. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Napolitano al Parlamento europeo, l'austerità ad ogni costo non regge più, dice il Presidente, le ragioni di disincanto dei cittadini sono chiare, c'è stata una contestazione leghista durante il suo intervento, è in malafede, dice Salvini. Mercati in tensione dopo i dati negativi ieri dagli Stati Uniti, giù Tokyo di oltre il 4%, Milano in questo momento perde mezzo punto percentuale. Inflazione allo 0,7% e quindi stabile. Nel frattempo cambia il paniere dell'Istat, entrano tra le altre cose le sigarette elettroniche e le cialde per il caffè. Letta annuncia un accordo con il Kuwait, il fondo sovrano investirà 500 milioni di euro nel nostro fondo strategico, questa è politica interna, economica e industriale, dice il Premier. Circa 500 persone evacuate in alcune zone del Padovano per il rischio esondazioni dei fiumi, stato di calamità naturale in Veneto per il maltempo, lo ha decretato il presidente Zaia. È il momento di America 24 e di Mario Platero. America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da Milano. Mario Platero, sono in Italia per qualche giorno, ma seguo ovviamente quello che succede in America, soprattutto a Wall Street, che ha perso ieri il 2,08%, siamo a quota 15.372, al di sotto della soglia psicologica dei 15.500 punti, a dire che si era proiettati verso quota 17.000. Perché? Beh, un calo del settore manifatturiero al di là delle previsioni degli analisti ha preoccupato, preoccupano i paesi emergenti, ci si deve in qualche modo aggiustare all'idea che la Federal Reserve continuerà col suo tapering e quindi con le riduzioni di acquisto sul mercato. Ma che è successo? Che nella notte poi Tokyo ha perso il 4%. Correzione? Beh, io credo che siamo proprio su quel termine, la borsa sta leggermente correggendo, realizzi di profitto, non credo che siamo in una situazione di panico, non dimentichiamo che Tokyo aveva fatto oltre il 100% nel giro di pochi mesi, anche le borse europee naturalmente soffrono, ma per ora diciamo siamo su livelli più contenuti. Ma oggi non voglio parlarvi di borse o di mercati, voglio parlarvi di olio d'oliva italiano che è stato maltrattato dal New York Times, secondo me con un grave peccato di sensazionalismo. A study done at the University of California, Davis, where they tested, they bought off the shelf a whole bunch of different variety of olive oil. Olio d'oliva, beh, l'olio d'oliva intanto italiano, l'extravergine, un grande mercato negli Stati Uniti, parliamo di 550 milioni di dollari. Cosa ti combina il New York Times? Fa una serie di vignette illustrate da Nicholas Blechman, che è l'art director della del New York Times Review of Books, che ha un titolo significativo: Extravergine Suicide, suicidio extravergine. E come una delle prime illustrazioni c'è un olio d'oliva con due ossa incrociate, olio d'oliva chiaramente al posto del teschio, dunque pericolo di morte. Devo dire, un approccio agghiacciante. In testa c'era autore diciamo dei fatti e di questi testi, Tom Mueller, che ha scritto un libro proprio sull'olio d'oliva, che è uscito nei giorni scorsi, che ha una prefazione della Gabanelli, che è stato presentato la settimana scorsa in Parlamento. Dunque, di questo ne abbiamo già parlato un pochino, se ne è parlato nei giornali italiani, ne hanno parlato le agenzie. Perché ci torno sopra? Perché ieri il New York Times ha fatto marcia indietro, una marcia indietro relativa in realtà, perché ammette di aver commesso degli errori, però ripropone tutta una serie di cose dando l'idea che siccome il nostro olio legalmente importa olive dall'estero, importa magari degli oli dalla Grecia oppure dal Nord Africa e poi vengono rilavorati perché abbiamo delle macchine, abbiamo dei procedimenti molto avanzati, è come se fosse strano che quest'olio è poi made in Italy. La polemica resta e io la voglio approfondire. Allora, io con me ai microfoni di America 24 proprio Tom Mueller, cioè l'autore del libro, che in qualche modo è all'origine di questo errore di cui il New York Times ha in parte preso atto. Buongiorno Mueller. Buongiorno Mario. Dunque Tom, qui la situazione è un po' complicata e devo dirle, dal mio punto di vista, lei è un po' corresponsabile di questa cosa. Io ho visto il suo libro e il richiamo, il lancio del libro dice che ci sono c'è questo personaggio scandalizzato perché ci sono tutte queste sofisticazioni dell'olio, ha un'introduzione della Gabanelli che sappiamo essere personaggio diciamo polemico, da denuncia, e sul suo blog c'erano alcune denunce. E quindi il personaggio del New York Times con cui noi abbiamo parlato ha detto, ma insomma io ho parlato con lui, ho visto il suo blog e ho semplicemente ripreso cose che lui aveva detto. Ma insomma lei è in qualche modo corresponsabile di questa cosa? Perché non è che le cose nascono dal nulla. Io sicuramente ho descritto in modo molto preciso delle frodi dell'odio. Io credo che sia importante sottolineare quando c'è la frode perché danneggia gli onesti. Poi ho scritto 200 pagine in cui ho parlato molto dell'altra parte, degli onesti, dei buoni, delle eccellenze. Ecco, ma questa frode lei in che percentuale la stima, la frode dell'olio d'oliva in Italia? Le dichiarazioni dei frodatori non le fanno. Sicuramente il problema dell'olio deodorato in supermercato è un problema massiccio. Massiccio, ecco, allora torniamo al punto di partenza. Tutto l'olio italiano, essendo massiccio, vuol dire che è edulcorato. Questo sta continuando a dire lei, o no? Sicuramente, come dice anche una parte del governo italiano con il nuovo piano strategico per migliorare l'olio, evitare l'olio deodorato. Non sono l'unico a dirlo. No, ho capito, però, Müller, scusi, massiccio vuol dire la maggioranza, questo vuol dire massiccio. E abbiamo visto che lo stesso New York Times ha preso le distanze dallo studio che è stato citato del 69%, che sarebbe la percentuale dell'olio nel mercato americano che è edulcorato, e ha detto che non è vero. E allora lei continua a insistere. Quindi ha ragione il New York Times o no? Non ho capito. Mi spieghi, perché sennò qua non... Bisogna capire e fare un distinguere molto importante tra frode e frode legalizzate, diciamo. Per esempio, questo discorso del 69%, il fumetto ha detto, chiaro e tondo, che il 69% degli oli nei supermercati americani, che si intuisce sono di origine italiana perché si parla nel fumetto di olio italiano, erano adulterato. Questo è completamente falso. Rimane il fatto però che lo studio dell'Università di California Davis dice che il 69% dell'olio extravergine non è, perché è difettato, perché ci sono problemi. Ovviamente non solo dell'Italia, della Spagna, del California stesso, però ci sono dei grossi problemi nei supermercati americani. Ecco, però loro l'hanno allargato, diciamo così, all'Italia. Questa marcia indietro del New York Times è sufficiente o a questo punto, secondo lei, c'è un danno forte per la produzione dell'olio italiano in America? Io credo che la marcia indietro è solo una marcia indietro a metà. Innanzitutto non rimette a posto l'immagine di base del fumetto che illustra un sistema Italia come se fossero tutti frodatori. Però peggio ancora lascia questo dubbio, questo nuvolone di dubbio sul mercato. Ecco, ma secondo lei allora che cosa si può fare per proteggere o rilanciare l'immagine dell'olio italiano? Cosa si dovrebbe fare? Secondo me bisogna tornare su quello che è la ricchezza e anche la forza dell'olio extravergine italiano, ma anche dell'Italia, cioè chi ha fatto questi oli, proprio materialmente le persone, quando hanno fatto questi oli, cioè la freschezza del prodotto, e dove, i territori dove nascono. Oliviero Toscani si è offerto a fare una campagna pubblicitaria per spiegare queste cose, potrebbe essere un ottimo inizio per fare chiarezza. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Seguiteci su america24.com, su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, abbiamo parlato, diciamo un po' di sensazionalismo, di alcune bugie che secondo me il New York Times ha cavalcato, e quindi vi propongo degli Iron Maiden. No more lies, basta bugie. No more lies. Milano è tutto. Simone, ti ripasso la linea. Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going. America 24. Rapidamente ringraziamenti Gianmarco Ferronato in regia, Laura Faggini in assistenza in redazione, tutta la redazione di Radio 24. Andate sulla nostra pagina Facebook, ci sentiamo tra un attimo col giornale radio.